La Cina è ben poco ignorata, anzi mi sembra che ci sia sempre un tentativo di tirare per la giacchetta, per così dire, la Cina e di portarla dentro a questi conflitti come se dovesse necessariamente parteciparvi anzitutto da un punto di vista militare. La Cina sulle crisi diplomatiche ha una, diciamo, visione molto coerente e anche molto nota, perché è quella che mantiene da sempre, cioè la Cina si oppone formalmente alle tensioni internazionali, prima di tutto per motivi, come dire, piuttosto pratici, cioè le tensioni internazionali limitano e rendono problematici gli interessi commerciali ed economici della Cina in termini di commercio internazionale. Naturalmente non cerca quanto più possibile di tenersi lontano da queste tensioni, dopodiché la Cina negli ultimi anni, come sappiamo, è un paese che ha guadagnato un potere, un'influenza diplomatica internazionale di notevole ampiezza, e questo determina anche una sua presa di posizione di qualche tipo rispetto a queste crisi. Una presa di posizione che abbiamo visto sia per i conflitti in Asia occidentale e Medio Oriente, Iran, l'ultima in ordine di tempo, ma ci sono state poi tutte le crisi innescate da Israele nella regione, e poi c'è naturalmente quanto accaduto in America Latina con Cuba e il Venezuela. La Cina si oppone fondamentalmente a quello che stiamo vedendo, che, diciamo, contravviene a uno dei principi fondamentali della politica interna ed estera cinese, cioè il rispetto degli affari interni e della sovranità territoriale dei paesi all'interno della comunità internazionale. C'è naturalmente, come dire, un fastidio piuttosto evidente da parte delle autorità cinesi. Questo non significa che la Cina prenda una posizione di altissimo profilo sul piano diplomatico, nel senso che tenta di evitare quanto più possibile un confronto frontale con gli Stati Uniti. Allo stesso tempo la Cina non rinuncia a prendere una posizione anche piuttosto netta rispetto a queste crisi. Questo lo dimostrano alcune dichiarazioni recenti, per esempio per quanto riguarda la crisi in Iran. Recentemente il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha parlato del blocco imposto e voluto dagli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, lo ha definito sostanzialmente pericoloso e irresponsabile. E a un livello più alto il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che il blocco degli Stati Uniti non supporta gli interessi condivisi non soltanto della Cina ma dei paesi della comunità internazionale. Un ultimo esempio, un ultimo riferimento alle citazioni che, insomma, hanno accompagnato la presa di posizione cinese nei confronti del blocco sullo stretto di Hormuz, che è abbastanza singolare ma anche interessante, è venuta fuori da un organo di stampa, da un media cinese. Sostanzialmente si è paragonato, insomma, ha parlato del blocco degli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, insomma, come la risposta di un blocco a un altro blocco, insomma, ha parlato di questa azione come di aggiungere un lucchetto a una bici dopo aver fallito, non essere riusciti a rubarla. Quindi naturalmente la posizione cinese è una posizione critica. L'Iran è un paese importante per la Cina perché fornisce soprattutto gas, è più importante la Cina per l'Iran perché quello cinese è il primo mercato di esportazione del gas iraniano. Però è bene ricordarlo, perché questo purtroppo succede molto spesso, le relazioni internazionali della Cina non si muovono solo e unicamente lungo le rotte degli interessi economici e commerciali. Con questo naturalmente non voglio negare l'importanza e l'influenza di queste fonti. Un'ultima cosa, anche rispetto a quanto accaduto a Cuba, recentemente è stato sottolineato, insomma, sono venute fuori notizie di aiuti inviati dalla Cina nei confronti dell'isola. Naturalmente anche in questo caso si tratta di mosse più simboliche che effettive, perché la Cina tenta di mantenere un profilo diplomatico internazionale diverso da quello degli Stati Uniti, improntato alla non ingerenza, ma l'assunzione di misure e di azioni di diplomazia di un livello troppo alto, comunque di un livello che porterebbe a un eventuale scontro diplomatico di alto livello con gli Stati Uniti, è quanto i cinesi vorrebbero evitare allo stesso modo. Un ultimo accenno rispetto alla petroliera cinese che avrebbe transitato dallo stretto di Hormuz. Marine Traffic, che è questo sito, questo portale di tracciamento, ha identificato questo tentativo di passaggio. Già oggi l'imbarcazione è ritornata indietro, quindi allo stato attuale non possiamo parlare di un attraversamento dello stretto di Hormuz da parte della petroliera cinese. Quindi, come sempre, c'è tanto tanto da osservare, e le notizie insomma non si fermano al primo accenno, ecco, di qualcosa di nuovo che può arrivare. La risultaria adesso è tornata indietro, e quanto comunica il comando centrale degli Stati Uniti, che è incaricato insomma di vigilare sul rispetto del blocco imposto dagli Stati Uniti, è che allo stato attuale nessuna nave è riuscita a forzare il blocco, nonostante una decina circa abbia tentato di farlo.